è possibile, non ti ho mai sentito così basso. Così basso. È strano, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non sta facendo bene. Nemmeno io l'avevo riconosciuto. Sì, Santiago 7 qua. Fatti un segnale non normale. Santiago 7 radio 2, 3, da. Il QRM sotto influisce però. Viene avanti, guarda. Dai, è un piacere averti sentito, vai. Cerca di vedere che cos'è, così almeno ti sentiamo, quando entri ti sentiamo in condizioni migliori, dai. Magari è qualche cosa di massa, se c'è qualche spezzone, qualche cosa, controlla. Buona serata, ci sentiamo. Ciao Walter, ci sentiamo. Se potevi usare un'antenna decametrica, una di 10 metri, a vedere almeno se è l'apparato oppure se è la mantua. Sì, però non la posso usare perché ho staccato il cavo, ho fatto la comparazione. Se no, non è finito, qua c'è solo questa. Ah, ok. Questo segnale è comunque 9. Io vedi sono attaccato, se spendo sono due Santiago in meno, e praticamente lo stesso segnale come se arrivando in blu. Sì, sì, c'è qualcosina un pochino di troppo, non sto scendendo l'antenna. Va bene, dai, chi vuole entrare, avanti. Io rimarrò, vista l'ora, quasi quasi già. Facciamo querti di massa e io mi dedico un po', preparo la cena, eccetera. Va bene Marco, dai, ci sentiamo, buona serata e buona carica quando la fai. Ciao! Black sul canale di, sul canale 10 K. Ehi, Antonio, sei entrato che stiamo chiudendo proprio, ciao. Buonasera a lei. Poi, 9.30 qua, Questo Smither ci arriva a 9.30. Aia. Eh sì, 9.30 pieno. Mi stava prendendo il crampo al piede, mi. No, ero alla Urbia, non c'era Sasha. Ah, ecco. Giusi. Da quando c'è la macchina adesso non ti do cambio di sciuco. Anche se non ce la pensi era la stessa cosa oggi. Perché io non bevo e poi chiedo mamma e capito. Questo è fatto quel lavoro che mi avevi detto in macchina? No, ma ci ho ripensato. Cosa è? C'è la Marco, ma se ne è andato. Negativi, avanti brecco. Avanti brecco. Veloce cucciù. Ciao Marco, ma tu sei? Ehi Anto, un po' con lecca lecca. No, sentito un break e un ciu ciu più basso, sì, annesso e connesso. Quando scala, certo la modulazione è un po' troppo sparata, ma perché siamo in città. Il break non viene avanti, il ciu ciu ti arriva forte, vero? Mi sembra un segnale già visto. Avanti ciu ciu. Perché mi pare un ciucciù che conosco, ma vabbè, non vuol dire nulla. Va bene, tu, io stavo chiudendo, così già c'è lecca lecca. Faccio un po' di cose qua, mi organizzo una cena, eccetera. Una cena, la cena. Gianni presumo stia per portare il cane. Dai, sentiamo in altre occasioni, dai. Ehi, dai, ciao a tutti, anche io sto andando via, dai, ciao a tu. Vado a portare giù il cane. Ok, dai, ci sentiamo. Ma la cosa è troppo sparata. Per questo locale sì, o magari anche la mia, io cerco di parlare piano per quello. Vabbè, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Va meglio ora? Sì, sì. Ho troppo sparata. Fabio, va meglio, dai. E là, cavolo, va via, chi sono minoretto, va via, non so se è bello mio, l'hanno accetto plus, però non riesco a trovare un microfono per adattarlo, se no funzionerà anche forte, andrebbe anche bene. Ero rotondo, ci ho messo il 48, ci ho messo. Fabio, anche là, ti saluto che sto andando, vai, ci sentiamo alla prossima. Ehi, a capo, là, ci sentiamo, ciao ciao. Marco, ci sei? Canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10? Avanti, canale 10. E beh, tu? E beh. Ah, sei vivo allora? Era da parecchio che non entravo qua sul, no, da parecchio che non sentivo mai nessuno. Ogni tanto chiamo ma non va mai nessuno, adesso mica risposto tutto. Guarda, se ne è andato Gianni e Marco l'avevo sentito tempo fa, Gianni non so da quando è, da un bel di tempo. Te sento ogni tanto a Tino e a Gavino, mi è capitato di sentire sul canale 12 e basta, a te vabbè già ti ho visto passare più di una volta dove lavoro e basta, tutto a posto tanto. Via Roberto Quadrato. E tutti ne sono usciti adesso. Ciao Marco, chi è che hai per me? Chi può essere più forte qua al monte? Luca, dai, ben sentiti tutti. Una domanda, siccome c'ho dubbio su questo microfono, è la mia modulazione solita o è diversa? Ma io lo sento bene, è bella. No, bassa, dico, come intensità. Che dire, io ho il volume a filo di udibilità. Comunque è capibilissima, è una bella timbrica, non so dire se è la solita, Roberto. Guardate una cosa, scusate l'intromissione, questo è la solita, il microfono che utilizzavo solitamente, adesso ne metto un altro e mi dite se cambia qualcosa. E allora io ho regolato il volume per questa, provo un po', è bello carriello. Hola, gappa rogge. Fulvia, io ci metto il camerale, ho messo l'aglio, cazzo di stracco. Questo è un altro microfono, qualche va meglio, uno o l'altro. Allora, questa è più sparata, più da battaglia. Ma è distorta, com'è? Allora, a me piace l'altra di più perché è un po' più rilassante. E forse anche un po' più arrotondata la modulazione, come dire. Più bilanciata può essere. Oh, può darsi, dai. Ok, aspetta, metto l'altro allora, è solo una prova che mi volevo togliere un dubbio. Facciamo venire avanti di nuovo a Luca, che sono da parecchio che non lo sento. Ciao Luca. Ehi, Robe, ascoltami, se devo passare da te. Oppure te lo dico qua, esiste, allora ti spiego, hai visto la Citroen C3 in alto, no? Dove c'è lo stop, hai visto? Sì. Praticamente cosa ho fatto? L'ho smontato, sicuramente ho allentato le molle che hanno e mi rimane aperto, ogni volta che io lavo la macchina mi entra qua dentro, mi va a finire su quel pannello. Esiste un mastice, un qualcosa, mi dai un consiglio? perché si stanno attaccando le plastiche qui, sia quelle laterali che le, dove c'è la luce. Porta non li mettiamo noi, si chiama massice grasso, nella parte esterna lo montiamo, perché sennò te ne entra l'acqua, ti si allaga tutto e fa il danno. Portalo quando vuoi Luca, non naturalmente di lunedì, verso metà settimana, se riesci a passare il primo pomeriggio è meglio, se c'è più calma te lo faccio personalmente io. Ma vabbè Robe, se mi dici quanto costa, quando me lo compro? No, comprare niente, ha già detto Luca, cacchio, già lo sai, con te non esistono problemi. Vieni diciamo martedì sera, mercoledì sera o giovedì sera, che c'è più calma, noi apriamo alle 2:30, 3, vieni a quell'ora lì e vediamo di risolverti il problema. Anche se la macchina vecchia, però cazzo mi piace tenerla sporca, provvisorio me la tengo, però sto puttando di cambiarmela piano piano, dai. Sto puttando su un diesel, adesso vediamo, boh, oppure un benzina, una macchina che spinga, cioè che vada meglio, ecco, perché sta già iniziando a rompermi le scatole, quello, va bene, dai, pomeriggio già mi faccio un salto. Quando vuoi, allora guardate un attimino, sto sollevando un peluzzino il microfono, ditemi se è cambiato qualcosa così. Più forte. Ma non è di forza la voce? No, Rob. Allora lascio così. Va bene, allora riprenditi tu. Sono in camera da letto, con la 48, com'è buono? L'MB più 4. Io ti ascolto perfettamente, nessun problema, il segnale se è 9:30, sembra che lo superi pure, non è che l'abbia visto bene il segnale, però c'è un segnalone, radio perfetta. Appare già va bene. Antenna GPS Sirio. Luca ha sempre il solito impianto o tu c'hai o hai cambiato qualcosa? Tu c'hai il cuocone e basta. Chi è avanti? Cuocone. Tina, mettimi, poco fa ballato e detto, ho sentito tempo fa Tina Gavino, adesso è rientrato anche lui qua, dai. Sono contento, dai, prima non c'era nessuno, chiamo spesso, non sento mai nessuno, mi ha risposto Antonio e in un attimo sono entrati tutti, dai, meglio così, dai. Sono contento, sempre CB e non mancherò mai di esserlo. Io e Tino e Claudio. No, mi pare anche una cosa, Tino, sai, sto ascoltando con un altro altoparlante adesso, normalmente ascolto con quell'altro, infatti ho detto, buh, mi sembra l'inversa, però ho sentito il tocco del microfono, infatti adesso già è Claudio, è Becla. Sono stato a salutarvi, ciao Antonio, Luca, Antonio, Roberto, eccomi che sono in ascolto, non gridare però sono stati, Roberto, ti vado a cenare e poi mi guardo la TV, ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Tu sei CB e io invece sono CBO. Ok, io se c'è gente che vorrà diventare salutare, entro solo ora di ascolto. Ciao. Ciao Cla, che te poco mi arrivi forte a ratti dozzi. Ehi, c'è la tenera, 2 metri a terra, se la metto sopra il tetto. Allora cambia, non me la fotti di nuovo Antonio, l'importante è che possa salutare qualche amico di Mizzo, per il resto non me la fotti di nuovo, ho già detto. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ah, ciao, 9:20 sì, bello pieno qua. Anche tu non scherzi, arrivate tutti bene, non c'è problema, la radio è sempre la stessa anche se la uso poco, ma ancora in buono stato. Ciao Antonio, se vai Robè che vado a cenare, ciao. Ehi, ciao, ho chiamato di là, non c'è nessuno, mi ha risposto solo volte, però stava chiudendo e basta. Ok, buona cena, no, io ho già cenato, sto facendo ora, dopo mi guardo la partita, non so se interessa pure a voi, ho baciato un peluzzino qua. Ottimo Robby, lascia così, perché se non si aumenti questa radio, io lo sai, strappa, anch'io ce la tengo sempre a uno per appena più di uno, perché se no con la voce lavoro che ciò strappa, capito? Sì, anch'io, infatti vado a cenare adesso, così poi mi rilasso e mi guardo questa partita. Ciao Antonio, se vai Antonio, ciao Lugarie. Ciao, ciao, Cla, ci risentiamo alle prossime, K. Avanti, Robè. Avanti, vieni avanti. Google stavo dicendo che quella tra radio, quella che si assomiglia alla Midland, me. Aspetta, ma mi sta dando delle soddisfazioni enormi, mi sta dando. Aspetta che ha salutato, credo, Marco a coso, a Claudio, e lo faccio entrare, poi mi ripeti quello che avevi detto, ti ha soframodulato per un attimo. Capo, ho detto che questa antenna mi sta dando delle grandi soddisfazioni. Ma l'hai detto prima l'antenna, però non ho capito che antenna è, tu. Quella tre radiali, la GPE, quella della Sirio, che la fa anche la Midland uguale, quella è. Ma cos'è, una 5 ottavi o una Grand Prix? Che cos'è? Non ho capito. 5 ottavi. Come quella che c'ha Marco? Ma non aveva la grazione qualcuno di voi? No, io no. l'ha avuta un'altra persona. Se non hai toccato niente di potenza, qua sta arrivando 9,25 spaccato, con i picchi quasi 9+30. E io invece come ti arrivo di lì, Antu? Anche tu sei uguale. E mi stavo preoccupando, ho detto cacchio Claudio mi ha di nuovo superato, che lui è un po' più lontano di me. Tu sei quasi 9,30, sei fortissimo qua. Fatto dolce. Cappa, avanti a te Luca. Ah, vabbè, è sempre lo stesso qua. Sempre lo stesso. Eia dai. Che sì, mi devo mettere la sveglia, che ne ho una alle 3.20, l'altra alle 3.30. E purtroppo il lavoro che fai tu non è invidiabile, dai, però devi averci una mossa se vuoi mangiare qualcosa, se no devi rimanere buttato. Ma è fortuna sta lavorando Luca, però è molto sacrificato il coso, gli orari, il sonno, eccetera, eccetera. Però bisogna prendere quello che dà il colvento, come si suol dire. Tu no, Luca, stai toccando 9.35 e con i picchi arrivi quasi 9.40. Marco Condo arrivava 9.40 a spaccarti. Questa radio da, se non mi ricordo male, ma Marco mi ha dato 20 watt in AM e 40 in FM. Quindi sei con la potenza della radio, non ti stai aiutando con niente. No, niente. Potenza della radio. Guarda, se vuoi provare in FM, vediamo un po' di secondi. Perché visto che mi assorbe un po', un bel po' di ampere. Facciamo un po' come un FM. Ora. E avanti? E ora un po', Robè. Ma la bomba si tutto qua. Vedi, sei assorbe. Se non lo vedo bene perché è più cavolo. Non lo vedo, comunque penso di ampere, può essere. Ti assorbe 10 ampere per spendendo parecchio, Luca. A me bene mi senti? A tutti sono benissimo, fondo scala attenuati, non voglio attenuare, perché arrivate a fondo scala attenuati. Addirittura 9,60 arrivo. Avanti Brecco. Avanti Brecco. Qualcuno ha chiamato Roberto. Sto suonando troppo forte. Mi pare che non è pronto. Ritornate in AM. AM. Chi è che stava chiamando Roberto? Avanti. Qua è arrivato sparato fondo scala anche quello. Tu ci sei arrivato, Luca, vabbè, è arrivato fortissimo anche in AM. E questa radio quando in FM arrivano ancora più forti. Vi ha tenuto di 20 dB, super arrivate tutti e due i 9,60. Poi uno ha chiamato Roberto che vi ha schiacciato, non so chi sia. Ma che non sia Marco. No, ho sentito anch'io una chiamata per Roberto, ma la mandiamo avanti e non riprende. Anche una bella modulazione, molto pulita, era chiara. Non so chi sia. Oh, anche a me è arrivato fortissimo. A me è arrivato basso, il segnale è basso, quel segnale che mi ha segnato qua da me. Tutti i siti siete quasi tutti a fondo scala qua, cioè alla fine tutti i led mi accendete quasi. Praticamente quello che ha chiamato a te era molto più basso. Ma che radio stai usando? Il 3009 lui? No, questo è il Aniton, così si chiama Marco. Il 555 Plus. Una bella modulazione pulita, chiara, una telefonata, bella. Segnale, non ne parliamo, perfetta. Qua Presidente Richard. Anche la tua è bella, però se hai letto lì con questa specie di eco che a me non mi piace, magari lo valutiamo meglio. Ecco qua, Presidente Richard senza lecca. Perfetta, infatti l'eco, i camionisti quando sono lontani, che ci sono disturbi di collina e cose, ma in città poi ognuno fa quello che vuole. Io sono sempre stato contrario all'eco. Quando siamo vicini la modulazione deve essere più chiara possibile, senza, perché molte volte poi non si capisce cosa dici, ripetizioni che magari alterano anche il significato della parola. Antonio, di nuovo a te. Antonio si è allontanato e boh, c'è qualche donato, vediamo chi ha chiamato Roberto prima, se risponde, se no riprenditela Luca. Sono quelli che di nuova generazione digitali fanno le ripetizioni all'infinito, belli, sono molto chiari, non sono di quelli diciamo di vecchio stile, questi sono molto precisi come ripetizione, però ripeto, non ne vengo nuda, poi vedete voi. Questa è una radio completa, Roberto. Completa. Marco ti può dare le caratteristiche, ce l'ho uguale. Sì, Sì, praticamente è l'Intec HR5005, è come quello che ha anche Tino. Ma c'è frequenzimetro pure? E diciamo che è un indicatore di frequenza, non proprio frequenzimetro, però siamo lì. Non ha decimali così? No, c'ha due decimali, già c'era due decimali, come può essere l'indicatore di canale. Sì, grosso modo sai dove sei, però non è detto che, poi sei, che tu sia centratissimo, ecco. E là, eccomi qua, sono ritornato. Ah, non è un frequenzimetro questo, Marco, perché segna la frequenza 27.075.00. No, non proprio. Il vero frequenzimetro è quello del Pluto, per esempio, che è collegato proprio al cuore dell'apparato e ti dà frequenza reale a trasmissione e ricezione. Anche qua, per esempio, questo baracchino MFM c'ha un indicatore canale della frequenza, ma non è un frequenzimetro, è giusto indicativo, ecco. Vai, Robè. Quindi anziché indicare il canale ti indica solo la frequenza, però non è la reale. Tu puoi uscire anche magari fuori frequenza, lui ti indica 27.075. Ok, e ho sentito di nuovo il colpo importante quando stava parlando Marco, non so chi sia, avanti se vuoi entrare. No, forse ero io che ho schiacciato. No, credo tanto. Andrea Marco arriva a 9.40, lo supera, tu sei quasi 9.30, è un segnale più forte. Ci sono canale 11, gli americani arrivano a 9.20, sparati qua. Qui kilowattari. Ma non è nato come segnale adesso, stiamo scaldando i motori. Sì, qua sei arrivato a quasi 9.30, un peluzzino, però Marco quasi a 9.50, Marco tu sei attaccato. Naturale. Con i picchi arrivi quasi a 9.50, figurati. E io come arrivo dalle tue parti, Marco? Qua è fondo scala incollato, 9.30 non va oltre, siete tutti incollati a fondo scala. Quello che ti arriva più forte di tutti sicuramente è Luca, che ce l'hai di fronte, almeno per come ho capito la tua posizione. Non lo so, ascolta, facciamo una cosa, adesso vi attenuo tutti, proprio questo attenua a me, prova a te, vai tu Roberto. 27.075 canale 10, prova di modulazione e prova di radio. Vai Luca. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Vai Antonio. Allora, Roberto Santiago 3 e Luca 3 e mezzo. Antonio non pervenuta. Ehi, dimmi tutto, che stanno facendo delle prove, stanno facendo. Allora, 3 anche Antonio. Allora, Roberto e Antonio sono pari ex equo. Luca mezzo Santiago in più attenuato, da. No, lo obiettavo, Luca arriva fortissimo. Io l'ho sempre detto, a casa mia, togliendone quelli che c'avevo vicini, il più forte di tutti era Luca, a parità di potenza. Probabilmente ci abbiamo un canale, non lo so. Lui arriva una bomba, sempre, da quando l'ho conosciuto, anche con 3 watt, era sempre quello più forte di tutti. Poi gli altri si attaccano, magari. E considerando che Luca non ha neanche l'antenna, per dire, montata in alto, se no guai. E vabbè, diciamo che Fabrizio ha fatto un bel lavoro, perché l'antenna ultimamente stava andando male. La sistemata Fabrizio è perfetta, capito? Infatti un ultimo lavoro. Insomma, l'antenna era da buttare. Ci ho speso una cinquantina, sessantina di euro, se non mi ricordo. Ho preso anche il palo in zingato, perché quello che avevo messo prima, quando mi aveva dato l'antenna Claudio, praticamente era in ferro, si è arrugginito, ha spaccato tutta la, come si chiama, l'alluminio. Lo so, bisogna farli bene una volta per tutte. Ma le staffe ti reggono? Tu avevi avuto anche problemi di staffe, di fissaggio, lui, o sbaglio? La staffa c'è sempre quella lì, infatti io le volevo cambiare per sicurezza, ma le volevo costruire, però bisogna prendere bene le misure, robe, bene, se no è un casino. Poi rifare i buchi di nuovo, cemento, rapido, e metterle come Dio comanda, ma visto che ancora stanno reggendo. Ma tu quanto ne hai di palo? No, non ne ho tanto. Sarà da terra, sarà 5-4 metri, sarà da terra, non lo so, non mi ricordo adesso. Però io fai conto che io sono il più distante di tutti. A confronto a loro io sono più lontano. Ci pensavo ci fosse chilometri, mi dava poi abito. Non l'abiti tu, dove abito io, eh. Non è bucciare il gioco, no? No, per vantarti, ma ti ripeto, ho detto già l'altra volta, dall'altra roccia dove abiti tu, non so esattamente il punto preciso, non è mai arrivato nessuno così forte, mai, tu ti arrivavano intorno ai 9, 9, 5, e tu adesso in questo passaggio, vabbè, ci avrai qualche aiutino, sei 9.30 puliti. Sì, la verità ho attaccato, la verità. E mi ha dato 5 punti, da 9.25 c'è 9.30 con i picchi positivi. Ciao, l'ho attaccato per fare lo scaldare, ho detto mi tocca c'è gente, allora lo facciamo andare, perché ha bisogno di farlo andare un pochino, che ha detto. E ogni tanto bisogna farli scaldare i condensatori, se no le cose. E Luca comunque è quello che ti arriva più forte di tutti, mi immagino, Antu. Ehi, non è la madre di più burungoso. Luca è un po' più forte. Luca è più forte di Marco. Però anche Marco qua arriva molto forte. Marco c'ha anche lui una buona posizione, non c'è da sbagliare, basta, vediamo un po', richiamiamo a quello che ha chiamato il mio nome, se c'è ancora, se no riprendi tu Luca. Non voglio sbagliare, però secondo me Marco arriva più forte di voi lo stesso. Allora io posso fare così, adesso vi attenuo, fa un passaggio Marco. Aspetta, che sono nudo e crudo, aspetta. Così è come ero prima, vedi un po'. Vai. Aspetta, non trovo che cazzo, l'RFG qual è? Vai, riprova Marco. Frontale. Vedi un po'. Ok, vai Roberto. Ha migliorato di 10 punti e non so pochi, Marco. Da 9.40 a quasi 9.50 è arrivato, allucinante. Ti spaccherà tutto, arriverà molto più forte di me sicuramente. Vai Antonio. 9.3. Ma staccato sì, Antonio, agganciato. Agganciato. Ah, oh, gioca a fa. Cazzo, io sono sganciato, sono 20 watt. Sgancia. 9.3. Allora, Antonio arriva, 7 a picchi di 8. Vai Roberto, di nuovo. 1, 2, 3, prova, canale 10, 27, 0, 7, 5. Roberto, 8 pieno, vai Marco. 3 watt, 4 modulati. E Roberto quanti ne ha però? Marco, 9 a picchi di 10, 9 più 10. E Marco è più forte. Poi c'è Roberto e poi c'è Antonio. Marco, è logico, è molto più vicino di me. Io a questa radio sto dando effettivi una decina di watt e poi quei picchi ne da molto, molto di più. Ma anche tu, Roberto, vai a picchiare nel... Vabbè, c'è 8 a picchi di 9, io vabbè c'ho 20 watt qua, penso che si dia 20 watt al massimo, non lo so Marco, non ho mai misurato questa radio. Ma così c'ha tutto però. Così sei 9 più 20 Anto. Luca, 12 watt, sei vergine di fabbrica, 12 watt in AM. Sì, è vergine, sì. Allora 12 watt. Marco, tu adesso sei praticamente, come ti ho detto prima, modulato a 9 più 20 arrivi. Sì, vabbè, così è proprio 3 watt di portante a multa, presumo 4 modulati. Vabbè, ma siamo un tiro di sputo, non fa testo. Io stavo aspettando che la rotta di Alghero venisse un po' qua per fare prove, così diamo i controlli a loro e li danno a noi. E invece niente, se ne stanno in disparte. Capo, un attimino di bianco, che devo già fare su Bianconi. Ok. Capa. Ma la rotta di Alghero dice che è stato sul 15, vero? Allora, nel pomeriggio erano sul 15, due persone, cioè presumevo da Alghero, due persone c'erano. Eia, però qua non li sento mai. Ma stasera poco fa è entrato anche Walter, però arrivava a Balsi 27, era Santiago 7, radio 2-3. Addirittura. Vabbè, male. Stavo utilizzando un'antenna non dedicata, perché lui c'ha un sacco di antenne, magari per quel motivo. No, questa è la Manta, ma la uso anche in altre bande e mi ha tolto belle soddisfazioni con questa antenna. Montata nel 2005, 20 anni c'ha questa antenna ed è un treno, non ho mai fatto un'operazione, anzi, quando appena piazzata si era rotto il coso del PL di sotto, ho rifatto tutta la bobina nuova, da allora non è stata più toccata l'antenna. È sempre mai stazionare, mai niente, è sempre quella di adesso mi vari qualche controllino ai tiranti, le fate con le cime nautiche perché ogni tanto bene regolarla bene, ma sta andando grazie a Dio. Le altre qualche problema su quelle di altre bande, qualche problema me l'hanno date, infatti come inizia il bel tempo dovrò intervenire per sistemarle. E Marco, quando eri attaccato quanti ne stavi dando per curiosità? Allora, con 3 watt in ingresso presumo 50, non di più. forse 55 modulati, non di più però, soltanto a fare un salto così da 9. Adesso se fai il passaggio normale, scusa. Così è, ai, la spalla mi fa male, aspetta. Allora, così è, 3 watt, non modulati, 3 watt e presunti 50, perché con 4 watt me ne da 60, con 3 grosso modo 50, importante è multa, ecco, vedi un po'. Allora, da 9.35 passi a 9.45, è tanto, tantissimo, il guadagno è impressionante, ma lo puoi pilotare anche di più col giocattolo? Sì, però non ho lo strumento attaccato, non vorrei esagerare con l'ingresso, non ho il wattmetro attaccato, dai, l'ho messo così anche perché qua più di 5 watt non li puoi dare, sennò comincia a saturare, capito? Volendo potenzialmente, per esempio in AM, ma in FM, con la potenza minima da 5 watt e mezzo, quindi mi pare ne dia una settantina in FM. È sempre bene controllare tutti i parametri, sia l'ingresso che l'uscita della radio con lo scaldino e soprattutto se c'hai rosso, perché più aumenta la potenza il rientro è molto superiore in percentuale, magari c'hai 3 watt e dici con un rosso alto non succede niente, ne arriva mezzo watt, ma se ne hai 50 te ne arrivano 3 o 4 di watt di rientro e in percentuale ti possono danneggiare la radio. Aspetta un attimo, fermo qua, aspetta, ti mando un corpo di portante multa, fermo. 9.45, però sentivo un po' di ronzio. In FM da una settantina. Vabbè, tanto per farlo lavorare me, sai, quando entra qualcuno da fuori Sassari, costa propagazione un macello ogni volta a comunicare. Poi questo QRM elettrico, poi questi baracchini. Questo baracchino in caso di quiete, tipo di notte tardi, QRM a 5. È normale, c'è l'assenza di QRM reale e qua sei di A5, non c'è niente da fare. Sono delle friggitrici. Riprendi lui. Sì, comunque vabbè, da. Penso di cavolo, questo qua attenuatore. Ecco qua, aperto. Ma chi sta entrando su questo canale 10? Ero da tanto che non sentivo gente, ma tantissimo tempo, forse l'ultima volta che ho sentito a Marco. Carlo, ho più fatto sentire, c'è. No, Carlo no. Mine, stavamo parlando con Doppio Room prima. Hai detto che magari lo contatta per sapere la situazione. Si è trasferito di casa, mi ha detto dove va a montare, ma questo stiamo parlando verso dicembre, che ci siamo venuti visti in officina, mi ha portato la macchina e doveva montare l'antenna nella casa nuova, mi ha detto. E così sapevo anch'io che c'era stato un cambio di QTH. Ma è coso, Franco Binario, tutta quella gente lì, c'è ancora? Franco Binario sta entrando molto poco, il Profeta è praticamente sparito, poca roba. E coso, come si chiama, Eugenio, ci sentiamo ogni tanto per coso, per messaggi con Eugenio, e il Profeta lo è impegnato, lui sta sempre facendo ormai serate, ormai è diventato una star della cosa, vabbè, era già bravo da prima, adesso forse è più conosciuto e sta lavorando un po' di più. Sì, Eugenio l'ho sentito una settimana fa, per un paio di giorni di seguito. E coso, Riccardino? Il Riccardino c'è una di che non entra, non credo che sia più interessato peraltro. No, era passato a trovarmi, che lui ci ascoltava, è un po' così, aveva un po' di vergogna probabilmente, da che ti vogliono tutti bene, non ti preoccupare. Non ci è capitato che ha ascoltato gente, e coso Giulio, anche lui lo stesso ha passato tempo fa da me a trovarmi, però poi qua in radio non ho più sentito nessuno di quelli, parliamo di quelli storici dai tempi miei. Anche Giulio, sono settimane e settimane che non lo sento, qualche settimana dai, e non è più voglia nessuno qua. Poi c'era quello di Alghero, che poi si aveva preso la patente, come si chiama? Aiutatemi, non mi ricordo mai, no. Ibu, ma non Texeno, no, ma lui l'aveva presa secoli fa la patente. No, ma fa Mirko. Boh, sconosciuto. Ci sentivamo spesso, anche dopo che aveva preso la patente io, tante volte. Poi un po' solo una volta ci siamo sentiti in VHF se non sbaglio e basta. Di nuovo Antonio, vediamo se è rientrato, se no riprende Luca, ancora qualche minuto perché io poi dopo vado a vedermi la partita. Stavo cambiando il bambino, stavo cambiando perché si è accabbuato. Quanto tempo c'ha Anto il piccolino? 2 anni. E allora lo devi tenere a guinzaglio, se ti scappa, adesso è l'età più pericolosa, quando iniziano a camminare, a muoversi, devi avere gli occhi aperti, le cadute, i spigoli e cose varie. Sì, già attento, via. Ma già lo so. È un po' bell'occhio. Già lo so, poi i bambini sono degli amori, quando sono così piccoline, grazie. Va bene, ok Luca, ci sei ancora avanti. Sì, sono qua, mi sa che anch'io, mi qualche passaggio e chiudo. Che me ne vado a Nana, adesso mi metto in posizione, in pole position, perché domani se no, mamma mia, domani è lunedì, è tosta, però come hai detto tu prima bisogna lavorare, se no non si magna. Non si magna, non si fanno tante cose, capito? Poi c'è, lavorando c'è soldini. Non sono molti, però da, ci vanno bene. Adesso per camparsi. E niente, mi prendi roba. Adesso Luca, poi da essere un ragazzo volontario, non sei di mandroni buttati, sbandati, dai. Già ti conosco, l'ho sempre detto, non lo dico perché ci sei tu, ma l'ho sempre detto. Volenteroso, vuole lavorare, purtroppo c'è qualcuno più fortunato che riesce a entrare in puzzi un pochettino più, meno fastidiosi, e non fatene nulla. Chi a volte vuole lavorare, molte volte si deve adattare a fare questi sacrifici, l'orario, però fatti forza Luca, poi vedrai che piano piano trovi qualcosa magari di più, di meno faticoso, soprattutto per il sonno, uno che si deve abituare a rifare il sonno nuovo, io mamma mia, già dormo poco. Ok, vediamo Marco, di nuovo a te il mic. Via. Vista l'ora, devo chiudere dalle 8 e tutta la sera stanno chiudendo, ma poi sei entrato Antonio, una parola tira l'altra, eccetera. Sì, Robè, quando entri tu è già tardi, perché Gianni che inizia alle 8 porta il cane, io mi organizzo la cena e spariscono tutti alle 8 di botto, capito? È entrato anche Torino oggi a salutare, non lo sentivo da un po'. E comunque poca roba, Robè, non così, oggi è un caso, tutti sono ritrovati a casa domenica sera e chi poteva entrare. Ma qua c'era proposto, Fabrizio l'aveva detto ed altri, di ripopolare il canale questo della 27, magari se non il 10, il 12, qualche canale in modo da rivitalizzare un pochettino, dai, ogni tanto per cambiare. Dai. Quelli di Alghero lo stanno facendo su 15, ci dovrebbe essere Alessandro e altri 3 o 4 o 5 che siano. E Coso, l'altro, Franco Di Sorso, lo stesso mi era capitato di sentirlo, Contino e Gavino, e Tonino mi è capitato di sentire e basta, gli altri non mi ricordo chi c'era. Poi di quelli, so, vabbè, Monaima e Natalino lo stesso, purtroppo quello che è successo e basta. Quelli di Alghero, diciamo, c'era solo quel Mirko di quegli altri, poi tutti gli altri erano scomparsi. Poi c'erano quelli dei paesi, c'era quello di Osilo, come si chiama, adesso me lo ricordo neanche, ve lo ricordate? Uranio. Forse l'ho sentito giorni fa, però non stavo riconoscendo neanche la voce, boh. Poi c'erano quelli di Usini, di Ittiri, quelli stesso, come si chiamava quello, non Caimano, come fa Napoli, aiuta, quello di cos'era, di Usini, che usciva, arrivava fortissimo a me. Allora, se era di Ittiri era Giaguaro, arrivava fortissimo anche qua, e poi da Ittiri c'è Daniele che ha preso casa lì, che arriva benino, 8,5 quasi 9, e pochi altro, però poca roba, là, te l'ho detto. Vabbè, signori, io devo mettere anche la lavatrice, ancora non l'ho fatto, dico non lo faccio, e poi si fa tardi, una cosa breve, mezz'oretta, già, per non disturbare. Ciao Antonio, ciao Roberto, ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltori, ci sentiamo, vai Roberto. Grazie Marco del quest'ora, per quel poco che abbiamo parlato, io spero di risentirvi tutti quanti presto, anche io adesso chiudo, saluto Antonio, saluto Luca, chi c'era che poi mi sono dimenticato, chiunque fosse alla scuola, Antonio Pompugno qualche volta mi è capitato di sentirlo e basta, saluto tutti chi fosse all'ascolto, poi spero di risentirvi tutti quanto prima. Luca, quando vuoi passa, non lunedì che c'è un po' di confusione, da martedì, mercoledì, giovedì dopo pranzo c'è più tranquillità, passa e vediamo di risolverti il problema. Saluto di nuovo a tutti, ciao ciao, corretti da parte mia. Sì, Robè, grazie mille, dai, va bene, dai. Buonanotte a tutti allora. Anche io aspetto, ciao Antonio, Marco, Roberto, alle prossimine, ciao. Ciao, ciao, ci risentiamo, ciao ciao a tutti. Via, ciao Anto. A due anni. Dov'è la volea? Domani siamo in due. Andava, vedi. Va bene, andava, vedi che sospengo tutto, che mi metto in fase di decollo. Ciao. Ah, ti volevo chiedere, ma quest'estate, come c'è andato il tempo, compro la scala, compro alta, ci saliamo su. Cosa compri? La scala. Cosa devi fare? Salire sul tetto. Manutenzione? A vedere se tutto a posto, perché altro. Ehi, compra, se è fattibile, ci fanno salire, sì. Ma cosa, ma che cambia in bara? Perché non sono gastato? E me, la lasciamo le volte, no? È vero, è vero. Allora ragazzi, aspetta un attimino, oh. Buonasera. Ciao, mi stavo chiudendo, io la mattina devo alzare alle 3:20, 3:20, 3:30. Comunque tutto bene, dai, tu sei tutto a posto qua, avanti. Buonasera Tino. Aspetta, saluto ancora Tino che stavo chiudendo, adesso avevo già chiuso, ciao Tino. E allora, anche qua sì. Certo, gli amici non si dimenticano, Enrico, sempre i cibi non morirò mai. Mi ho appena chiuso, adesso ho sentito la tua voce, stavo spegnendo tutto, ti saluto Tino, speriamo di sentirci presto, dai. Andiamo a tutti, ciao ciao. Ehi, ciao, no, io adesso riprendiamo noi, però siamo sul 12, dai. Va bene, ciao a tutti, dai. Buon divertimento. Lu, mezzo panino ogni tanto. Sì, mezzo, uno, due. Andare, meglio così. Dove fare, sì. Quello c'è, quello ci mangiamo, dai. Va bene, mi ha fatto piacere sentirti ogni tanto, dai. Capita che molte volte passa al 12, adesso un pezzo, vi chiamo ma non rispondete, forse avete lo squelci. No, sicuramente siamo in PMR, perché siamo anche in PMR, capito? Quindi facciamo un po' di ping pong e secondo me abbassiamo un po' il volume, dai. Ma non parlo di PMR, parlo canale 12. No, siamo sul 12 in 27 e in 4600 in PMR. Ah, ok. Ma sicuramente, vabbè, date già arrivo, ma giù a produttore se non credo. Andate, dai, io chiudo, abbasso le finestre, chiudo le persiane. A domani se Dio vuole, buonanotte a tutti. Va bene Luca, buon trabacco per domani, tante cose belle, ciao, riprendi Antù. Ciao Lu, ce la risentiamo. Buon lavoro per domani, buon tutto, ciao. Volto ricambia 300, caparaccia. Ciao Roberto, ci sei ancora, eh. Oh. Sta 159 euro, 5 metri. E dove ne vai tu? Passa da Taglia a Camisuria. Ah. Per fare manutenzione, capito? Va bene. Però io mi sposto a questo canale, dai, c'è troppo bailare, che sento troppo sotto gli altri. Ok, dai. Ce ne sentiamo dopo che... Un bambino, cos'è? Vabbè, sono là io, tu. Ciao, divertitevi. Ciao.